Allora, per introdurre l'incontro di stasera, conviene riandare al 25 novembre del 2018. Quel giorno furono chiamati compagni che negli anni e nei mesi precedenti si erano impegnati sulla questione della detenzione amministrativa per i migranti, quelli che allora si chiamavano prima CIE e poi CPT. Erano venuti attivisti e compagni di Lecce, Torino, Bologna, Modena. Era stato un momento in cui avevamo cercato di riassumere quelle esperienze di lotta, di sostegno esterno all'iniziativa dei reclusi che si erano concretate in una serie notevole di distruzioni, rivolte, danneggiamenti che avevano inceppato la macchina del controllo carcerario dell'immigrazione clandestina. Da quell'incontro di lì a poco sarebbe nato punto di rottura, un'aggregazione di compagni di varia provenienza, gravitanti su Milano, che intendevano riprendere il filo dell'iniziativa rispetto all'annunciata riapertura di una nuova struttura detentiva per i clandestini, quelli che sarebbero poi stati i CPR. Il gruppo ha continuato a svolgere quel po' di attività che è riuscito a svolgere, quindi presenza fuori da Corelli, presa di contatto con gli ospiti dei CAS, iniziative di denuncia e disturbo delle cooperative che prestano la loro impropria attività al funzionamento di queste strutture di reclusione, degli incontri di approfondimento, ce ne fu uno molto significativo con Pietro Basso, come stasera ce ne sarà un altro con Daniele Ratti, cioè con quei ricercatori compagni che hanno cercato di andare al fondo di tutto quello che sta sotto quanto poi appare talvolta, raramente, sulle pagine dei giornali e che si concreta nelle retate, nell'attività di controllo del territorio da parte della polizia. E questa sera, per cercare di dare conto dell'attività fin qui svolta e provare a rilanciare, perché è stato difficile andare avanti in questi 3 anni, i contatti con l'interno del CPR, che sono l'elemento chiave, perché i compagni fuori, gli attivisti fuori possono, quando riescono, sostenere quanto fanno i soggetti direttamente coinvolti e colpiti dall'agire statale. Questi contatti, diversamente che in passato, sono e continuano a essere molto difficili da stabilire e mantenere. Per cui l'iniziativa ne ha risentito, oltre che in generale dei tempi grami e delle difficoltà dell'attività militante. Però si è cercato di andare avanti e a un certo punto ci si è posti questa idea, appunto, di realizzare un video documentario, una cosa che vedrete è molto semplice, destinata a dire cosa sono queste strutture, quali sono i percorsi di vita dei migranti clandestini e insomma riprendere il filo del discorso per cercare di andare avanti. Quindi questa sera, oltre all'aperitivo di finanziamento che vi invito a consumare abbondantemente sia nella parte solida che nella parte liquida. Ci sarà la visione di questo video documentario appena ultimato, una relazione di Daniele Ratti, un compagno che abbiamo avuto modo di apprezzare attraverso una serie di iniziative e innanzitutto attraverso gli speciali realizzati da Radio Cane. Poi seguiranno due interventi per dire appunto cosa si sta facendo, cosa sta facendo Punto di Rotura e la discussione. Siccome insomma non siamo proprio in estate, vediamo di stare magari un po' stretti, così che nessuno si assideri sulla sedia. E ecco, noi vorremmo, dico noi perché anch'io faccio parte di questo aggregato piccolo, perché non siamo centinaia e centinaia, comunque vorremmo cercare di trovare anche delle sponde, degli agganci, dei sostegni ulteriori. Molto ci sarà da fare, oltre che fuori di questi punti di concrezione del sopruso statale, cercando di andare a incrociare i ragazzi nelle scuole, dove le persone giovani e vecchie si trovano, per far sì che questo punto oscuro e per tantissime persone che abitano e vivono o lavorano a Milano, sostanzialmente sconosciuto, riesca a risaltare nella sua bruttura e a smuovere delle coscienze e dell'agire pratico in senso quantomeno solidale. Ecco, questo è il senso e l'obiettivo dell'iniziativa di questa sera. Per cui io chiudo qui, guardiamo il video, poi ci sarà quello che ho detto prima. Dal 2014 ad oggi, più di 24.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo, tentando di raggiungere le coste europee. Le migrazioni sono un fenomeno storico e diverse sono le cause, come guerre, devastazione dei territori ed espropriazione delle risorse, che spingono gruppi di persone e intere popolazioni a spostarsi da una zona all'altra del pianeta. Spesso si dimentica che il principale responsabile delle morti lungo i tragitti dell'emigrazione è l'esistenza di leggi e frontiere che limitano o impediscono la libera mobilità. Oggi queste frontiere sono più pervasive e non coincidono con i confini territoriali degli stati. Una volta attraversato il confine, restano numerose altre frontiere, spesso invisibili, fatte di controlli polizieschi, burocrazia, divieti e requisiti, il cui possesso va dimostrato continuamente. Chi ne è privo viene prelevato e spostato o rinchiuso in appositi centri, senza il suo consenso e contro la sua volontà. Tra gli strumenti di cui gli stati si sono dotati per punire chi non possiede la cittadinanza o i permessi per attraversare il suo territorio, vi sono i CPR. I CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, sono strutture detentive, dove gli immigrati senza documenti sono rinchiusi fin tanto che non verrà eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale o un rilascio con foglio di via. Nati nel 98 come CPT, centri di permanenza temporanea, con la legge turco-napolitano, poi rinominati CIE, centri di identificazione ed espulsione, alcuni di questi centri sono stati chiusi nel 2014, grazie alle rivolte dei reclusi, per essere poi riaperti con i decreti Minniti nel 2017. Nei CPR gli individui sono privati delle loro libertà e per finirci non è necessario aver commesso alcun tipo di reato. I reclusi non godono di sostegno né legale né sanitario, ricevono cibo scaduto oltre che scadente e spesso riempito di psicofarmaci. Sono controllati notte e giorno dalle forze di polizia e si trovano alla mercé di cooperative che di sociale hanno ben poco. Dopo 20 anni che sono qua a Milano non ho mai visto il CPR, è la prima volta che vedo il CPR. Un posto brutto, che non lo auguro a nessuno. cioè, ti hanno da mangiare, scaduto, ci trattano male, se hai bisogno di psicofarmaci, quello ce ne, quanti ne vuoi. La gente lì si taglia tutti i giorni, si fanno male per andare via da quel posto lì, non l'auguro a nessuno. Non c'è né lenzuoli, né materassi sporchi, tutto sporco. Poi quando fanno le perquisizioni ci trattano male pure. Se sbagli a parlare ti danno pure le mangellate. È peggio del carcere, veramente è peggio del carcere. Il CPR di Via Corelli a Milano rispecchia perfettamente le caratteristiche indicate dal decreto Minniti. È collocato lontano dal centro della città, isolato e a breve distanza dall'aeroporto. Circondato dai campi e sormontato dalla tangenziale, risulta facilmente controllabile, fuori dalla vista e dalla vita degli abitanti del quartiere e dell'intera città. Un luogo dove le voci delle frequenti proteste dei reclusi difficilmente riescono a fuoriuscire dalle mura e dove i suoni e i rumori delle manifestazioni di solidarietà faticano a entrare. I reclusi, rifiutando la riduzione della loro vita a merci scartate nel magazzino per umani in cui sono stati parcheggiati, hanno scelto di non essere più le vittime sacrificali e i capri espiatori di questa società di segregazione ed esclusione. Perciò hanno ripetutamente danneggiato e reso inagibili le strutture loro assegnate. Questo è il campo di concentramento, questo non è, anche in carcere si sta così. Guardati come siamo qua, guardati. Il 12 aprile 2020, data la diffusione del Covid-19, un decreto della Protezione Civile istituisce le navi quarantena, traghetti privati utilizzati per porre per l'appunto in quarantena gli emigranti. Se ogni luogo adibito alla privazione della libertà personale opera una separazione dal fuori, una nave quarantena compie l'ulteriore passo di non trovarsi sulla terraferma. L'idea di un luogo espulso dal territorio non è nuova. L'aspetto sanitario va a innestarsi sul meccanismo già consolidato dei centri di reclusione per immigrati, rendendolo però definitivamente palese. Da un lato il territorio puro e ora anche sano da preservare, dall'altro la minaccia, l'invasione, il contagio. Si parte dalla questione sanitaria come giustificazione, ma essa viene immediatamente disconosciuta a favore delle esigenze logistiche e gestionali, come dimostra la presenza a bordo sia di positivi che di negativi, costretti a condividere gli stessi spazi. Tentare comunque la fuga, anche in quel mare che è stato un cimitero per molti, diventa preferibile alla nave. Le vite di uomini e donne, di questa umanità in esubero, umiliata e offesa, spariscono nei CPR o in altri luoghi dell'esclusione. Fuori, ad attendere chi ha ancora qualche utilità per la produzione, una sequela di ricatti, sfruttamento e speranze disilluse. Per ora. Allora, funziona, sì. Dunque, Robby ha sbagliato l'ordine, perché in realtà facciamo un intervento prima come gruppo di punto di rottura per lasciare lo spazio poi a Daniele Ratti, che sarà la parte più interessante. Siccome è freddo, di tutto il mio intervento riduco al minimo, perché tanto Robby già l'ha anticipato presentando punto di rottura, che in realtà nasce prima del 25 novembre del 2018, anzi nasce a settembre di quello stesso anno, perché era arrivata appunto la notizia della prossima apertura, che verrà poi due anni dopo, del CPR di Milano, e soprattutto fummo motivati dal fatto che l'associazionismo di milanese sosteneva che i CPR fossero stati chiusi per l'intervento appunto di Lasciateci Entrare, che era un'associazione, insomma, che aveva cercato di entrare nei CPT, nei CIE, dove era difficile entrare, avevano fatto pressioni, ma in realtà la verità dei fatti stava nelle rivolte che li avevano chiusi. Cioè, di 13 CPR che erano presenti allora, ne rimasero aperti solo 5, ma questo accadde, e noi lo sapevamo bene, perché chi c'era dentro non si era mai arreso, e quindi avevano lottato, si erano rivoltati, avevano reso inagibili queste strutture, questi lager, perché sono luoghi di detenzione amministrativa. Quindi questo ci motivò a cercare di far conoscere meglio quella che era stata la lotta negli anni precedenti, e organizzammo appunto quell'incontro in cui vennero tutti i compagni e le compagne che avevano lottato, che avevano e che si erano anche organizzati insieme per dare solidarietà alle rivolte all'interno dei centri di permanenza temporanea, che erano stati istituiti con la Turco Napolitano e che poi successivamente erano stati via via anche peggiorati con la legge Bossi-Fini del 2009, che li aveva rinominati CIE. Lo scopo di questi centri sarebbe quello della deportazione, però le percentuali di deportazione sono sempre rimaste piuttosto basse, perché occorrono accordi con i paesi in cui rimandare chi viene dalla parte sbagliata del mondo e non ha i documenti giusti per stare nel mondo ricco, e quindi non sempre sono stati possibili, e tuttora rimangono piuttosto bassi. In questo periodo, per esempio, i maggiori deportati sono, oggi abbiamo saputo che succede così anche in Francia, comunque sono i tunisini, e infatti la gran parte dei reclusi del CPR di Corelli, che sono, guarda caso, tunisini, perché poi li riescono a deportare. Comunque, dopo Elena parlerà anche di quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Io credo che non sia necessario che vi spieghi che cosa sono questi centri, perché il video mi sembra che lo spieghi molto bene. Direi che posso aggiungere soltanto alcune cose. Intanto dentro non esiste, cioè, oltre al fatto che sono luoghi di abuso totale, perché non esistono nemmeno regole, chiunque ci sia stato, come anche la testimonianza che abbiamo sentito, dice che si è frequentato anche il carcere, dice che questi luoghi sono peggio del carcere. Dentro è un abuso continuo, totale, costante, non c'è tregua. Il cibo è quello che si è detto, e soprattutto c'è la questione della mancanza di assistenza sanitaria. Pensate che non esiste un protocollo d'intesa con le aziende sanitarie, per cui non vengono, cioè anche difficilmente vengono soccorsi quando stanno male. Vorrei aggiungere un dettaglio che abbiamo scoperto dopo che c'è stata un'entrata a giugno del senatore De Falco, mi sembra che si chiami così, da cui è uscito un rapporto molto interessante che mi sembra si intitoli delle pene senza delitti, perché appunto lì dentro i CPR ci si finisce non necessariamente avendo commesso dei reati. E praticamente si evince da questo rapporto che durante la giornata, e dire che sapevano anche che qualcuno sarebbe entrato a vedere, è già tanto se c'è un operatore degli enti gestori e un infermiere. Quindi da questo si deduce che questi centri sono completamente nelle mani delle forze dell'ordine. le quali fanno il bello e il cattivo tempo e massacrano costantemente al di fuori della visione, cioè cercando luoghi in cui le telecamere non ci sono per operare i loro pestaggi, ma soprattutto non sono tenuti a registrare le presenze, per cui anche dovesse uscire una denuncia per un pestaggio non si potrà mai sapere qual era il poliziotto, il carabiniere o insomma presente in quel momento all'interno. Questo per dare soltanto un'idea della totale dei totali abusi e mancanza di qualunque controllo all'interno di questi centri. Per fortuna che un controllo c'è ed è quello dei reclusi che si rivoltano, avete visto anche le immagini, sfasciano continuamente tutto, tanto che anche a Corelli, che è tornato in funzione a settembre del 2020, già sin dall'inizio due reparti sono stati resi inagibili e adesso ne funzionano uno e mezzo. Detto questo, tornando alla questione dell'incontro del 25 novembre del 2018, intanto c'è un opuscolo con la sbobinatura di tutti gli interventi. Il nostro scopo era quello di far capire e di sapere che un metodo per dare solidarietà a chi è recluso in questi posti c'è ed è sempre stato praticato negli anni. E intanto limitandosi a un'analisi o a una contestazione dell'esistenza di questi centri da un punto di vista esclusivamente antirazzista, cioè nel senso di considerare che sia un'ingiustizia. No, questo l'abbiamo sempre inserito all'interno di un discorso collegato alla funzionalità che questi centri hanno. Ne dico una per tutte che poi sicuramente Ratti spiegherà molto meglio, che la gestione della questione immigratoria in Italia, ma anche negli altri paesi, è sempre stata legata al controllo dei flussi. Perché il controllo dei flussi? Perché uno dei beni, una delle risorse di cui i paesi, soprattutto l'Africa, vengono innanzitutto depredati, al di là del gas, petrolio, terre rare o risorse varie, è proprio quella delle braccia, delle forze al lavoro. Per cui la gestione della questione immigratoria basata sul controllo dei flussi ha questo scopo di assicurare all'Occidente, alla produzione, la manodopera necessaria. Questa manodopera poi, una volta arrivata nei nostri paesi, essendo così ricattata e minacciata, è stata costretta, lo è tuttora, ad accettare qualunque condizione di lavoro o abitativa, e questo ha fatto sì che si venisse a creare quell'esercito industriale di riserva semischiavistico e che funzionale appunto alla produzione, che poi è stato funzionale anche a fare accettare a tutti gli altri condizioni di lavoro capestro. Io mi limito semplicemente a dire questo, a dire che si è sempre cercato di inserire appunto l'esistenza e la funzionalità di questi centri all'interno di un discorso ampio che ha a che fare con tutto il funzionamento del sistema e non semplicemente di considerazioni che riguardino il maltrattamento con motivazioni di tipo razziale. Un altro, sì, una questione che volevo semplicemente accennare, che non ci siamo dimenticati di affrontare, anche la questione della seconda accoglienza, anche per questo c'è un opuscoletto in distribuzione, perché naturalmente su questa seconda accoglienza, comunque, oltre al fatto di rendere dipendenti e soggiacere alle regole di questi centri, i CAS, come per esempio c'è qui anche a Milano, le persone che devono rimanere all'interno di questi posti per aspettare la risposta alle loro richieste d'asilo, li infantilizza, li rende dipendenti dagli operatori, si devono far accompagnare in qualunque sia a chiedere sia nei momenti insomma in cui devono chiedere il permesso di soggiorno o di qualunque cosa loro abbiano bisogno, devono chiedere la presenza dell'operatore e non possono assentarsi senza motivazione da questi centri, altrimenti vengono cacciati, e se vengono cacciati le possibilità di avere i documenti si riducono praticamente a zero. Quindi c'è tutta un'analisi anche su questa seconda accoglienza, che naturalmente è fonte di profitto per chiunque presti la propria professionalità all'interno di questi centri. Quindi anche una, un'attenzione anche alla seconda accoglienza, che non viene considerata certamente un fatto lodevole, ma che dipende semplicemente dal fatto che c'è una gran parte dell'umanità che, provenendo appunto, come dicevo prima, dai paesi sbagliati, e quelli paesi nei quali bisogna soltanto depredare risorse e forze umane, sono costretti a subire questo trattamento, perché altrimenti potrebbero muoversi liberi come tutti gli altri. Grazie. Va bene, volevamo raccontare un po' come ci siamo mossi in questi anni, non solo per, come dire, descriverci o raccontarci come gruppo, ma per cercare di avere anche una discussione, un dibattito, e anche per cercare di affrontare insieme le difficoltà che ci si sono presentate, perché comunque sono state tante. E quindi sperando, insomma, che la discussione possa essere anche utile a tutti coloro che vogliono in qualsiasi forma provare a lottare contro questi centri o contro il sistema più ampio che, come si diceva prima, li sostanze li rende indispensabili. Riparto anch'io un po' dalla giornata del 25 di novembre, quella in cui, come si diceva, c'è stato un grande incontro tra persone, compagni, compagne provenienti da varie città d'Italia, proprio per confrontarsi su pratiche, difficoltà e riflessioni, per dire che abbiamo sempre considerato indispensabili, abbiamo sempre cercato di mantenere i rapporti con tutti coloro che cercavano di lottare contro i CPR in tutte le città dove ce n'era uno, e quindi abbiamo fatto, insomma, incontri più o meno formali per scambiarci informazioni, per cercare di condividere il modo di muoversi, ma anche con tutte le persone che abitano o sono andate a lottare in zone di frontiera, quindi vabbè, principalmente la frontiera con la Francia, a sud a Ventimiglia e a nord, quindi al Monginevro, a Oulx. Per esempio ci sono state svariate occupazioni che proprio avevano l'idea di supportare la lotta di chi cerca di attraversare la frontiera, e quindi, insomma, di cercare di mantenere sempre questo tipo di rapporti, proprio per sapere cosa accade. Siamo andati tante volte anche noi in questi luoghi, che poi sono, insomma, molto, molto d'impatto, perché si vede davvero, insomma, che cosa significa poi attraversare queste frontiere, fare un sentiero magari di montagna e trovarsi la polizia che sbuca nei boschi con i raggi infrarossi per individuare le persone al buio. E abbiamo avuto anche racconti da chi vive più a est, quindi Gradisca, Trieste, che ci ha raccontato insomma di varie testimonianze, racconti di chi ha fatto la rotta balcanica, quindi questo per noi è sempre stato un punto molto, molto importante. Un altro aspetto che mi sembra interessante da raccontare è il fatto che abbiamo sempre visto il CPR non solo inserito in un discorso più ampio a cui si faceva riferimento prima, quindi come diciamo ingranaggio che è parte di un sistema più ampio, ma anche da quando si è cominciato a parlare della riapertura del CPR a Milano, di cosa significava un posto del genere in una metropoli come Milano, che ormai, come più o meno tutti gli altri luoghi, funziona comunque con meccanismi di filtraggio, di accesso, di inclusione ed esclusione, e quindi abbiamo cercato di vederlo proprio collocato in questa città, come si vedeva nel video. Si trova in un posto particolare che non è, insomma, casuale, anche se era già lì prima dei decreti Minniti, però, insomma, era abbastanza emblematica la sua posizione, da cui poi derivano alcune delle difficoltà che accennerò dopo. E non si tratta però soltanto della posizione in cui si trova il CPR, ma anche di altre questioni che, abitando questa metropoli e cercando in varie forme di lottare per il modo di vivere in questa stessa città, abbiamo incontrato. E quindi, a partire da situazioni sul lavoro, quindi ovviamente degli incontri che sono stati fatti con persone senza documenti nelle lotte sulla logistica, nei quartieri popolari dove molti di noi vivono, quindi tutta la questione, insomma, della possibilità di abitare in una città come Milano, delle case occupate. E quindi abbiamo cercato di interagire in vari modi con i luoghi della città dove sapevamo di poter incontrare persone che magari potevano condividere con noi alcuni aspetti della vita, e con la differenza, almeno per quanto riguarda ovviamente molti di noi, che non hanno nemmeno i documenti e quindi hanno un ulteriore elemento, diciamo, di un ulteriore modo di dover provare la loro possibilità di accedere, di poter vivere in una città come Milano. Siamo andati quindi in varie zone della città per cercare di incontrare queste persone in Piazza Le Cuoca, Volantinare, nei quartieri dove abitiamo, nei CAS, perché prima si faceva riferimento alla seconda accoglienza, in questi centri che non sono come i CPR di vera e propria reclusione, ma diciamo che dal punto di vista della vita sono altrettanto inquietanti, perché in teoria dovrebbero essere centri di accoglienza straordinaria, quindi le persone dovrebbero sostare lì molto poco, in realtà poi ci rimangono parcheggiate per anni e anni, e quindi cercano insomma di costruirsi relazioni, una vita in questi luoghi. E quindi per esempio molti poi si sono ritrovati a fare i rider, come anche alcuni di noi facevano, quindi ci sono stati anche dei contatti interessanti, perché al di là di questa differenza ovviamente profonda e fondamentale, poi ci si è, diciamo, rincrociati anche in altri luoghi, e questo ha dato anche un po' di forza e ha permesso di creare delle relazioni, a proposito delle quali ovviamente non posso non parlare anche del fatto che a Milano ci sono delle occupazioni dove vivono principalmente persone che non hanno i documenti, con cui abbiamo dei rapporti di amicizia e abbiamo condiviso tantissimi momenti di lotta, e sono per me parte un po' dell'emblema di come poi si intersecano dei momenti di vita in cui ci si fa forza insieme. Quindi questo sicuramente anche per leggere il CPR in modo più complessivo è stato ed è tuttora fondamentale. Abbiamo atteso per un po' l'apertura del CPR di Via Corelli, poi purtroppo aperto, e nel tempo che è intercorso abbiamo cercato di fare delle iniziative in giro per la città, molte davanti al CAS, perché c'è uno dei centri di accoglienza straordinaria a Milano, si trova proprio ad angolo con la via dove si trova il CPR, e quindi abbiamo incontrato tanti ragazzi e ragazze che vivevano lì. Abbiamo fatto delle iniziative in giro per la città per cercare di condividere il più possibile la preoccupazione, l'angoscia per la riapertura del CPR a Milano. E poi, sempre tenendoci in contatto con altre città, abbiamo cercato di organizzare iniziative ogni qualvolta ci fosse purtroppo spesso notizia di morti o comunque rivolte in altri CPR, visto che quello di Milano non era aperto. Quindi sono state fatte svariate iniziative per dare un po' fastidio alla tranquillità del centro milanese quando c'è stata una morte nel CPR di Gradisca e anche in quello di Torino. E come si diceva prima, abbiamo continuato a fare incontri con compagni e compagne di altre città. C'è stato un presidio molto grosso subito dopo la riapertura del CPR di Via Corelli a Milano, e anche un corteo per le vie del quartiere vicino, che è il quartiere Ortica. E il CPR di Via Corelli ha riaperto quando già c'era la diffusione del coronavirus, quindi abbiamo cercato di seguire anche un po' quello che succedeva in giro per il mondo, perché le rivolte nei centri di detenzione amministrativa sono state ovunque, c'erano sempre state, ma da quando poi c'è subentrata anche la questione del contagio e un sacco di altre limitazioni alla già risicata libertà che i reclusi e le recluse avevano, sono stati tantissimi scioperi della fame, rivolte in giro in tutto il mondo. E non appena riaperto il CPR di Via Corelli, anche i reclusi lì dentro si sono subito rivoltati, pochissime due settimane mi pare dalla riapertura, e ovviamente si sono ripetute praticamente, non dico a scadenza settimanale, ma quasi, le rivolte, soprattutto nel primo periodo da quando Corelli ha aperto, e abbiamo cercato in tutti i modi di dare solidarietà, di far sapere ai reclusi che insomma che qualcuno era dalla loro parte, di fargli sapere che eravamo lì. Questa è stata sicuramente una delle difficoltà più grosse che abbiamo avuto, come si diceva prima, per la posizione che il CPR ha, Quindi si è cercato di farsi sentire da fuori, dalla parte che avete visto prima, quindi dove ci sono i campi, anche diciamo dall'alto. Però insomma abbiamo magari le voci da fuori si sentono, però è veramente impossibile comunicare con chi è recluso dentro. Questo sicuramente è una delle difficoltà più grandi, perché ovviamente toglie una parte fondamentale del rapporto che si vorrebbe costruire, anche se abbiamo avuto modo di incontrare poi persone che uscivano. E dentro ora sono stati tolti i telefoni e vengono la possibilità di chiamare sia solo quando un operatore porta il telefono e poi rimane anche lì ad ascoltare la chiamata, quindi ovviamente è incredibilmente limitante. E sicuramente abbiamo avuto difficoltà anche nel cercare di probabilmente comunicare con invece persone non recluse dentro la necessità di lottare contro queste strutture, ma anche un po' con il sistema che le rende necessarie. Prima che aprisse il CPR abbiamo fatto una riflessione sul modo di muoversi nelle piazze, che adesso sicuramente diciamo è datata perché sono cambiate tante cose, perché c'erano all'epoca dei cortei in una forma molto classica, diciamo, anche molto partecipati, ma che di fatto non incidevano, e non intendo tanto sulla chiusura del CPR, ma sulla città. Quindi c'era una modalità, era chiamato insomma da realtà molto ampie, associazioni, ma il punto non è tanto chi le chiamava, ma il fatto che poi fosse tutto, come dire, molto contenuto, concordato, e che di fatto non ci fosse poi possibilità di esprimersi in quei contesti per nessuno che volesse mettere in atto un qualsiasi tipo di forma più incisiva, perché per noi questo era un limite enorme, perché ci dicevamo insomma se è una questione che riguarda appunto non tanto, non solo l'antirazzismo, non una questione umanitaria, ma delle nostre vite, delle vite in una città come questa, di intaccare alcuni meccanismi, sicuramente ecco, questa modalità ci sembrava totalmente distante da quello che invece, per esempio, sì la forza che veniva invece dalle rivolte dentro. E niente, poi a me piacerebbe, ora non so se ho detto tutte le cose che tra noi ci eravamo detti che erano importanti, però sicuramente se poi ci sono, non lo so, domande, curiosità o invece, non so, critiche, proposte, qualsiasi tipo di riflessione è la benvenuta, perché appunto sono tante le difficoltà. E a questo proposito, se qualcuno volesse qualche volta raggiungerci per dibattiti, discussioni, proposte, noi ci troviamo sempre il mercoledì in Calusca alle 6 tendenzialmente, sì. E abbiamo una mail cui potete scriverci, che è appunto di rottura @riseup.net, e quindi insomma anche per avere più contatti possibili e cercare di ampliare la discussione, anche penso io alla luce di quello che sta accadendo adesso, dei nuovi dispositivi che ha portato la gestione della pandemia, e che sicuramente non sono, come dire, differenti da quelli che già tante persone senza documenti per l'appunto sperimentano quando devono continuamente dimostrare di poter salire in un bus, attraversare una frontiera o vivere in una città. E basta, direi, poi se qualcuno ha voglia di parlare facciamo dopo. Allora, mi scuserete, io devo fare un intervento un po' noioso. Mi spiace. Dunque, cercherò di farvi un breve riassunto, diciamo come aggiornamento a tutti noi, rispetto a chi per vari motivi collabora all'esistenza fisica del CPR, non solo alla sua esistenza magari politica. Quindi il fatto che il CPR sia ancora in piedi fisicamente, che funzioni, ecco. Sì, partirei anch'io dal passato, quindi una volta che il CIE era stato distrutto, poi per anni è rimasto così com'era, e per poterlo riaprire è stato utilizzato il lavoro del genio militare, quindi questo, diciamo, ha portato dal punto di vista strutturale ovviamente ad un'attenzione militare rispetto alla difesa proprio del posto. E ovviamente non ci fornisce un granché di appiglio rispetto a situazioni con cui noi potremmo entrare in contatto. Ecco, il genio militare, diciamo che è un po' fuori dalla nostra portata, forse. E ecco, però ci sono altri soggetti che intervengono in questo luogo. Innanzitutto perché, come era stato detto prima, il CPR viene costantemente rovinato, diciamo così, da chi ci vive dentro, perché vengono fatte rivolte più piccole, più grandi, e a questo si aggiunge ovviamente la manutenzione ordinaria. Quindi tra manutenzione ordinaria e straordinaria c'è tutta un lungo elenco di aziende, aziendine più grandi, più piccole, che a vario titolo collaborano e costruiscono, sistemano varie parti del CPR. E, beh, non farò qui un elenco perché, insomma, un po' sarebbe ancora più noioso e poi è un po' lungo. Però potete trovare facilmente tutte queste informazioni sul sito della prefettura. C'è una sezione apposta e lì trovate. Se non volete fare questa ricerca, vabbè, se ne può parlare. Insomma, questo per quanto riguarda la manutenzione. Vabbè, potete immaginare, ovviamente si tratta di sistemare gli impianti di sorveglianza, sistemare i cancelli, le porte, le finestre e tutto quanto. Insomma, tutto quello che può essere distrutto, poi una volta che viene distrutto va sistemato. Ovviamente qualcuno lo deve fare. Questo qualcuno, più consapevolmente o meno, collabora all'esistenza di questo luogo. Poi, se sì, potete vederlo anche nell'immagine, ci sono quelle strutture di plexiglass che sono state montate sopra i cortili. Questi possiamo inserirli in interventi che non sono proprio di manutenzione, ma che fanno parte di migliorie. Ecco, non dal nostro punto di vista non sono migliorie, però peggiorano sia la vita di chi ci sta dentro, sia anche le nostre possibilità di entrare in contatto con loro. Però ecco, ovviamente anche queste migliorie vengono fatte da qualcuno, non crescono da sole. E anche riguardo a questo trovate tutte le informazioni sul sito della prefettura. Ecco, questo per quanto riguarda la struttura fisica, quindi i muri, le porte, le telecamere, tutto quanto. Per quanto riguarda la gestione invece delle persone, quindi al di là della polizia, dei militari che fanno la loro sorveglianza, come si diceva prima, la gestione proprio del CPR è stata per un anno, quindi fino a questo settembre, affidata a Verso Probo, che è una società di Vercelli che già gestiva altre attività, tra cui turismo, quindi la spiaggia della polizia, adesso non mi ricordo precisamente dove, e altri luoghi legati alla gestione dell'immigrazione, ma anche ad altro. Per esempio un canile. Siamo entrati in contatto tra l'altro con una persona che lavorava in quel canile e ha testimoniato le difficoltà come lavoratrice rispetto a questa società. Questo fino a questo settembre, perché ora il nuovo bando ha affidato la gestione del CPR alla società Engel SRL, che ha sede a Salerno e già gestisce il CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza. E qualche immagine del video viene da lì. Non è quindi una società nuova rispetto all'immigrazione, quindi già negli anni passati è stata al centro di polemiche rispetto alle condizioni di chi viveva nelle sue strutture, tanto che ci sono state denunce anche da parte di esponenti grandi, insomma, alti esponenti di partiti nazionali per via di minacce che sono state fatte anche con le armi rispetto a chi viveva dentro e ovviamente sulle condizioni. Anche loro gestiscono molteplici altre attività come costruzioni, turismo, import, export, case riposo di anziani, insomma. Per quanto riguarda, insomma, il lato più economico del nuovo appalto, sappiamo che più o meno al giorno per ogni persona si riceve circa 39 euro e che i posti sono aumentati. Non ci sono poi molte altre informazioni oltre a notizie di cronaca rispetto a questa società. Aggiungo solo un ultimo appunto, anche se non sappiamo benissimo ancora se è così che funziona anche adesso. Per quanto riguarda l'anno scorso, sicuramente il cibo veniva portato dentro il CPR da Arca, che non so, sicuramente avrete visto portare il cibo ai senza tetto in città. E solo che, ecco, questo cibo che veniva portato dentro era, per testimonianza, ecco, conteneva anche vermi o comunque era scaduto. E vabbè, ovviamente non abbiamo certezza che siano ancora loro adesso a proseguire questa attività, quindi solo per informazione. Ecco, spero di non avervi troppo annoiato, comunque si può approfondire ancora di più volendo. Quindi ora lascio la parola, se non distruggo niente qua. Ecco. Si sente? Di solito parlo senza microfono, stasera no. Allora, intanto io ringrazio il Calusca e ringrazio il punto di rottura dell'invito. Farò un racconto contenuto e anche un po' diverso di quello che di solito narro quando tratto delle questioni delle missioni militari e i rapporti con l'ENI. Perché è diverso? Per concentrare di più l'attenzione sul problema del Sahel e quindi di controllo dei flussi migratori, ma anche per richiamare alcune cose che secondo me sono state importantissime, richiamate dagli interventi precedenti, cioè l'affare. Una cultura che si è diffusa moltissimo in questo paese, grazie purtroppo al bimillenario monopolio culturale cattolico, è quello della carità. E la carità porta anche a considerazioni più ampie, etiche, che hanno in qualche modo infettato, usiamo questo termine che purtroppo oggi va di moda, anche gran parte del pensiero della sinistra, che in questi anni, parlando di varie questioni, quelle militari di cui io mi occupo, da qualche tempo, o tutto ciò che ne è collegato, si pone sempre l'accento sull'aspetto etico e non si parla mai invece di qual è l'affare. Le compagne precedenti hanno richiamato, soprattutto l'ultima, che non è stato assolutamente noioso l'intervento, accennando all'affare che c'è dietro, accennando ad Arca, che Arca fa carità ma fa affare. A fare carità sono ambivalenti. E allora questo racconto qui dell'ENI in missioni militari, che sembra lontano da un racconto sull'immigrazione, in realtà si ricollega capendo che cosa sta succedendo nel Mediterraneo e di come l'ENI sia la parte principale, si ricollega a quello che ho detto ora, cioè cercando di porre l'affare al centro della nostra analisi. La politica estera italiana formalmente esce dalla Farnesina a Roma, in realtà la si fa qua, a pochi chilometri, cioè a San Donato Milanese, che è la sede dell'Internazionale Idrocarburi. Intanto, scusate, non mi sono presentato, sono Daniele Ratti, c'è scritto, ma vi porto i saluti alla Federazione Anarchica di Milano. Perché l'ENI è importante? E questo è un ciclo di tre incontri radiofonici che sono stati trasmessi da Radio Cane, che hanno come centro l'Africa. L'ENI, le missioni militari, i cavi di internet che hanno come focus l'Africa e l'Ed Gremming che ha come focus l'Africa. L'Africa è l'avvenire, il prossimo avvenire, il prossimo futuro del grande affare mondiale. Delle 46 missioni militari in cui l'Italia è occupata all'estero, e apro e chiudo parentesi per chi non lo sa, l'Italia dopo gli Stati Uniti è il secondo paese presente per missioni militari internazionali all'estero. Di queste qua, oltre la metà, 23 sono presenti in Africa. Ma delle 6 missioni nuove militari degli ultimi 2 anni, 5 hanno come focus l'Africa, e quindi non è un caso che ci sia questo accento sull'Africa. Perché? La centralità dell'Africa è una logica conseguenza di una triplice partita. Primo, perché l'Africa è la nuova frontiera economica e l'ENI ne ha una storicissima presenza. Il Sahel è un luogo particolare che sta attirando le attenzioni dei maggiori gruppi economici mondiali e quindi anche a seguire, poniamo sempre l'affare sempre al centro di ogni valutazione e ogni attenzione, a seguire alla presenza delle missioni militari internazionali. Sono 36 i paesi che hanno missioni militari internazionali in Sahel. Secondo, cioè terzo punto, è il Mediterraneo, soprattutto la parte orientale, dove vedremo che ENI ha grandi affari, ha grande mobilità, e come vedremo ancora, scusate se mi ripeto, che l'affare non ha una etichetta etica, non ha neppure un'etichetta politica, ma l'affare è talmente ambivalente che, come poi illustreremo, l'Italia e l'ENI giocano su fronti diversi, su fronti contrapposti, e giocano su due tavoli completamente contrapposti e diversi. L'Africa rappresenta, come ho detto, quindi il primo aspetto, punto focale per l'ENI, è una storica presenza sino al 1959, due numeri per capire, non di più. L'ENI quotidianamente estrae 1,8 milioni di boe, che è il barile di petrolio, quello che voi vedete alla televisione, il barilotto. Di questo 1,8 milioni che estrae quotidianamente in giro per il mondo, 1,4 vengono dall'Africa, dalla fascia del Mediterraneo, dalla fascia sub-equatoriale, cioè dal Golfo di Guinea e in Egitto. Ma se spostiamo l'attenzione sull'altra ricchezza, che è l'oro blu, cioè il gas, qui la percentuale dell'Africa è travolgente, perché il 90% di tutto il gas che ENI estrae quotidianamente viene dall'Africa. Viene sempre dalla fascia mediterranea, africana, ma viene soprattutto da un grandissimo giacimento che ENI ha scoperto in Egitto, giacimento di Zohr, che ha messo in produzione e in commercializzazione. Il Sahel è quella cerniera che collega la sponda atlantica con la parte orientale dell'Africa, cioè con il Mar Rosso. Un enorme scatolone di sabbia, così lo si definiva, dove le ricchezze economiche, preda della Francia, che storicamente, culturalmente l'ha sempre occupato, erano circoscritte essenzialmente all'oro e più recentemente all'uranio. Non è un caso che la Francia, come voi sapete, gran parte della sua energia civile lo ricava dalle centrali elettriche, quindi non solo per ragioni storiche e culturali, ma anche per ragioni economiche, la Francia ha sempre occupato questa cerniera che divide quindi l'Atlantico dal Mar Rosso, ma divide soprattutto il nord dal sud. Ma è una cerniera che è importantissima perché, a nord c'è gran parte dell'energia, Algeria, Libia, Egitto, e a sud c'è ancora più energia, sia di gas e petrolio, che è la fascia equatoriale. Il Sahel sta al centro. Quindi se si vogliono controllare il nord e il sud, bisogna necessariamente controllare il mezzo. Ecco perché ci sono 36 missioni militari internazionali nel Sahel. Nel Sahel recentemente si è scoperto poi qualcosa di nuovo dal punto di vista energetico, che sono le terre rare. Le terre rare sono una somma di minerali che non sono rari nel mondo, sono rari perché hanno due particolarità. Costa moltissimo estrarle e inquinano moltissimo. E allora non è un caso che la Cina, dove il costo del lavoro è minore e dove certamente non è un paese che ha una grande attenzione all'ambiente, ne è il leader principale. Ma allora non è un caso che l'Africa diventa il centro delle terre rare. Perché? Perché il costo del lavoro africano è ancora e notevolmente inferiore di quello cinese. E la questione ambientale lascio a voi immaginare se ha l'attenzione o meno. Quindi si è spostato le terre rare dalla Cina all'Africa. E le terre rare sono tutti quei minerali che servono per fare funzionare tutti i sistemi digitali. Il sistema digitale è praticamente il nucleo di tutta la produzione industriale moderna e lo sarà sempre di più. Quindi le terre rare diventeranno ancora più importanti dell'oro nero e dell'oro blu, cioè del petrolio e del gas. Quindi il Sahel ha questa ricchezza. Ma il Sahel ha un'altra grande ricchezza, una ricchezza che interessa soprattutto l'Europa e soprattutto la fascia dei paesi mediterranei dell'Europa, cioè che sono queste qua, sono le braccia umane. Qualsiasi migrazione che viene dall'Africa, l'ho detto prima geograficamente, avete capito dove è inserito, no? Divide nord e sud, l'est all'ovest, che venga o dal Corno d'Africa o dall'Africa equatoriale, deve necessariamente transitare dal Sahel. E allora non è un caso che nei documenti ufficiali della Commissione europea si dice che Agadez, che sta nel Niger, è il primo punto di confine sud dell'Europa. Perché? Perché lì c'è la convergenza maggiore delle braccia umane. Le braccia umane, ritorniamo al discorso di prima, non è solo perché lo è comunque, ma non è solo un aspetto etico, ma è un aspetto economico. Chi controlla le braccia umane controlla i flussi economici che devono essere adattati in modo veloce, elastico e perfetto alle curve di produzione industriale o agricola. Mi pare che sia di comune dominio che tutto il settore dell'ortofrutta europeo, del bacino del Mediterraneo, dalla Grecia passando per l'Italia, la Spagna, il Portogallo, funziona ed è concorrenziale, perché per funzionare significa che deve fare concorrenza, deve produrre a livelli concorrenziali, solo e unicamente grazie alla migrazione, che sia clandestina o che sia disciplinata. Dal punto di vista economico, purtroppo sapete che anche quella disciplinata non è molto distante come costo unitario da quella clandestina. Quindi chi controlla il Sahel controlla questo flusso, questa ricchezza, controlla questo rubinetto, che è la stessa identica importanza che aprire o chiudere un rubinetto di una pipeline che ci passi o petrolio o gas. Voi vi ricordate questo 4 anni fa, quando fu un'immagine che ebbe un grande impatto mediatico, quando la signora Merkel, il cancelliere, accarezzò a mo' consolatorio la testa di quella bambina palestinese che gli annunciò in quella conferenza, che purtroppo era costretta a tornare in Palestina perché così le leggi vigenti in Germania non avevano più possibilità di accoglierla. Dopo quell'immagine, che fu un'immagine forte, dopo un mese la Germania, con la sua grande capacità organizzativa, accolse un milione di immigrati che venivano, in quel caso, soprattutto dal Medio Oriente. Un milione. Ma che cos'è che è successo? O si sbagliava la Merkel, ha fatto una gaffa, o ha fatto poi la gaffa accogliendo un milione di immigrati? E quando la Germania li ha accolti, li ha inseriti nel mondo del lavoro. Come mai a distanza di un mese? Perché dopo una settimana che la Merkel carezzò sulla testa la bambina, la ragazzina palestinese, dicendo che purtroppo doveva ritornare là, la Frankfurter Zeitung, che sostanzialmente fa la funzione del Sole 24 Ore di qua, e annunciò con grande rammarico che il welfare tedesco avrebbe avuto al massimo 20 anni di vita se non si apriva di nuovo il mercato del lavoro, di circa un milione di assunzioni. E allora come è stato aperto il mercato del lavoro? Aprendo il rubinetto del flusso dei migrati. Questo è il problema principale. E allora che cosa fanno le missioni militari lì nel Sahel? Andiamo nel dettaglio tecnico, che però è un dettaglio pratico, ma un effetto economico. Queste missioni militari, la cui più importante, che è nuova, si chiama Takuba, di cui l'Italia ne è capofila, che sostituisce la Francia è storicamente presente lì con 4.000 militari, ma costa molto mantenere questa missione, quindi non ce la fa, ha chiesto aiuto all'Europa e ha chiesto aiuto al suo rivale economico, vedremo poi alla fine qual è il rivale economico della Francia, cioè l'Italia, che fa da capofila alla nuova missione Takuba. Ma in realtà l'Italia era già presente nel Sahel, già da 4 anni, con altre missioni militari, che per brevità non vi sto a citare nei suoi vari acronimi, in tutti i 5 paesi del Sahel. Ma se andiamo a vedere tecnicamente che cosa fanno questi militari, non si occupano di quello che nominalmente si dovrebbero occupare, cioè della lotta alle formazioni jihadiste, che sono molto attive, soprattutto nel Mali, ma si occupano tutti della formazione delle forze di polizia. Si occupano tutti del controllo del territorio. Cosa vuol dire occuparsi del controllo del territorio e delle forze di polizia? Significa controllare chi? I jihadisti. No, significa controllare i flussi migratori. Ma facciamo un passo oltre nel tecnicismo. Nel nuovo piano nazionale pluriennale della difesa, uno dei maggiori investimenti che lo si fa è nel campo del digitale. E nel campo del digitale si stanno mettendo in produzione un nuovo sistema, si chiama come acronimo FCS, è il sistema che funzionerà con il 6G, cioè con la parte più evoluta della digitalizzazione, per cui sostanzialmente, la faccio in breve, sino a qualche tempo fa, un controllo del territorio poteva essere effettuato sostanzialmente da forze terrestri, se in mare da forze marittime, con il supporto via mare e via terra delle forze aeree. Ognuno agiva per conto suo e poi dava l'informazione agli altri due. Oggi con questo sistema integrato FCS, funzionante con 6G, in tempo reale, vuol dire un operatore in una stanza, ha sotto mano il controllo totale di un territorio e simultaneamente mette in funzione le forze terrestri, le forze navali e le forze aeree. Quindi si ha una simultaneità nell'azione che sino a pochissimo tempo fa non c'era. Ma questa simultaneità dell'azione in quel territorio del Sahel sta a significare seguire tutte le rotte migratorie. E se andiamo a vedere come sono le composizioni dei conflitti, proprio andando nell'intimo, tipo il conflitto libico, ci accorgeremo che molte, al di là delle due parti che si contendono, quella di Assaraj e quella di Haftar, da una parte sostenuta dall'Italia e Turchia e dall'altra sostenuta dalla Russia e dall'Egitto, cito i contendenti più famosi, in realtà ci sono parti tribali nel sud della Libia che sono deputati proprio al controllo dei flussi dei migranti e ricevono parecchie sovvenzioni da parte delle missioni militari proprio per questa loro specifica attività. Per ribadire che la politica non è etica, che la politica non è schierarsi da una parte o dall'altra, e per ribadire che la politica segue solo e unicamente gli affari, e allora bisogna raccontare che cosa c'è dietro i conflitti libici. Ora, nei conflitti c'è dietro di tutto, in situazioni così complesse, in strutture così tribali, qui abbiamo persone che potrebbero, che ne sanno molte più di me. Ma voglio porre solo questa attenzione in questo mosaico intricatissimo di quello che è in Libia. Non viene detto che uno dei nuovi attori che è entrato in Libia è un attore che sta in Medio Oriente e che quindi non è che c'entri moltissimo come area, può centrare come ambiente culturale, è un paese del Golfo. Ma questo paese del Golfo che è entrato in Libia, perché è entrato in Libia? Che sono gli Emirati Arabi. Perché gli Emirati Arabi sono i primi sottoscrittori con la Cina della Via della Seta. Voi sapete che questo grandissimo reticolo, sia terrestre sia marittimo, che serve al capitalismo cinese e al capitalismo mondiale per lo smercio delle merci. Gli Emirati Arabi sono il primo grande cliente di tutto il Golfo della Cina. E allora la Cina, il cui sbocco del reticolo sia terrestre e sia marittimo, ha come un'unica ha due destinazioni, una l'Africa e l'altra è l'Europa, deve avere assolutamente una testa di ponte nel Mediterraneo. E come fare ad avere una testa di ponte nel Mediterraneo? Inserendosi nel conflitto libico. Quindi nel conflitto libico, se andiamo a ben vedere, dietro le quinte compare un attore che sta a 6.000 km di distanza, che non ha truppe sul territorio, ma che in realtà ha un peso specifico enorme, cioè quello dell'affare. Ma l'affare è palese e si spoglia degli aspetti politici, degli schieramenti geopolitici, nonché di quelli etici, se andiamo a ben vedere cosa succede nel Mediterraneo dell'Est. Nel Mediterraneo dell'Est voi sapete che c'è un conflitto di bassa intensità tra la Grecia e la Turchia. Perché? Perché è stato scoperto a largo di Israele, del Libano, all'incirca, tanto per dare una dimensione geografica, sotto Cipro, un enorme giacimento di gas, l'ISMED, che se messo in produzione potrebbe fornire il 10% del gas che attualmente viene bruciato in Europa. E si è costituito un forum per la messa in produzione di questo enorme giacimento. In questo forum compaiono diversi paesi, tra i quali Egitto, Israele, Grecia, Cipro, Italia, Giordania, e ha fatto anche il suo ingresso uno Stato che non è ancora uno Stato, ma che è l'autorità palestinese. Quindi una composizione molto diversa, che non riflette proprio le amicizie o le inamicizie, ma come scopo l'affare. E quindi ci partecipa l'Italia tramite Eni e tramite Edison. Ma lì questo progetto, ISMET, va a cozzare contro un interesse enorme, che è quello della Turchia. Tanto vero che c'è questo conflitto a bassa intensità tra le forze greche, cipriote e turche. che si sono schierati militarmente, non quest'estate, ma l'estate dello scorso anno, con varie esercitazioni. Dimostrazioni di forza, hanno mostrato i muscoli. L'Italia in Libia sostiene una parte, che è quella della Tripolitania, che ha come alleato decisivo dal punto di vista militare, la Turchia. Quindi formalmente noi siamo alleati con i turchi in Libia. Ma peccato che abbiamo sottoscritto il contratto dell'East Gamet, che è antiturco. Perché è antiturco? Una delle ricchezze energetiche dei paesi non è che nel proprio sottosuolo ci deve essere gas e petrolio, perché basta che sul suolo scorrono le pipeline, cioè i percorsi del gas e del petrolio. Tipico caso l'Ucraina. L'Ucraina non ha risorse proprie, però ci scorre gran parte degli olodotti e dei gasdotti che dalla Russia arrivano qua. Scorrono sul territorio, prendono soldi perché pagano un affitto, ma soprattutto, come si fa con i migranti, si aprono e si chiudono i rubinetti. Se io ho la possibilità di chiudere il rubinetto diventa un problema. Quindi la valenza geostrategica e geopolitica energetica non è solo avere petrolio, gas o altro sotto il proprio suolo, ma avere la capacità di aprire e chiudere i rubinetti. La Turchia sta diventando, per l'evoluzione energetica che si ha partendo dal Centro Asia per venire in Europa, come il maggior polo energetico, e lo sarà sempre più in futuro. Quindi ha la possibilità di aprire o di chiudere i rubinetti del gas o del petrolio che passa sul suo territorio. È ovvio che la realizzazione del GasMed potrebbe mandare a monte questo suo ruolo che oggi ha di importanza geopolitica e geostrategica. E quindi ecco perché ha fatto un'esercitazione militare e ha mostrato i muscoli contro la Grecia, contro Cipro, contro l'IS Forum, cioè contro questo complesso di stati che hanno sottoscritto questo accordo per lo sviluppo dell'East Gas Med. Però peccato che ci sia dentro anche l'Italia. E come fa l'Italia in Libia, Italia vuol dire Eni, stare con i turchi e partecipare contemporaneamente a un progetto di segno opposto? Ma perché lo fa? Ma come ci sta? Ci sta in questo modo, che l'Italia deve necessariamente stare in Libia con la Turchia, cioè con la parte della Tripolitania, ma non può fare a meno di non partecipare all'East Med. Ma c'è anche un altro problema, che la Turchia ha rappresentato e sta rappresentando uno dei più grossi sbuchi del mercato delle armi italiane, e l'Italia è uno dei maggiori esportatori mondiali. Do solamente una cifra: nel 2013 l'Italia esportava in Turchia 11,4 milioni di armi, cioè di euro nelle armi. Dopo solamente 5 anni questi 11,4 sono diventati 900 milioni. E quindi è chiaro che il grande affare delle armi mi induce necessariamente ad essere comunque anche amico dei turchi, anche se contemporaneamente, attraverso l'East Med, ne sono formalmente un nemico. E allora che cosa fa l'ENI? E questo è palese di come la geopolitica e gli affari non hanno nessun schieramento politico, nessuna bandiera di nessun colore, ma non rispondono a nessuna etica. L'Italia è riuscita nell'agosto dello scorso anno, nel giro di un mese, a partecipare a due esercitazioni militari di segno opposto. Prima ha partecipato all'azione militare insieme alla Grecia in funzione antiturca. Dopo neppure un mese ha partecipato al contrario, a un'azione militare turca di esercitazione contro la Grecia. E questo è normale se la prospettiva sono la prospettiva degli affari. Questa è la dimostrazione quindi di come gli interessi dell'ENI determinano la politica estera e sono completamente disancorati da ogni prospettiva geopolitica. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Lo schieramento dell'ENI energetico in Africa, in realtà nasconde un'altra cosa che i media non hanno mai portato alla luce, cioè un conflitto profondissimo tra Italia e Francia. Già lo si intuiva all'epoca della defenestrazione di Gheddafi, poi è diventato ancora più palese con l'attuale conflitto libico, per cui si sa che l'Italia sostiene una parte, che è quella tripolitanea, mentre quella di Haftar, quella di Cirenaica, è sostenuta dai francesi, ma ancora qui è il puro affare che comanda la geopolitica, che comanda tutti gli interessi. C'è un qualcosa che non può essere raccontato, o raccontato vuol dire descritto bene e ripetuto quasi ogni sera dai media, non raccontato una volta sola. Ma è un raccontato che ci dà l'esatta idea di che cosa siano gli interessi dell'ENI, che cosa siano gli interessi militari, che cosa sono gli interessi energetici e come tutti questi tre elementi sono completamente collegati tra di loro. L'Italia, ho detto che è uno dei paesi, il secondo paese presente con le missioni militari all'estero, uno dei più grandi produttori di armi. L'Italia è produttore di armi attraverso Leonardo e Fincantieri, che poi hanno fatto una joint venture, cioè sostanzialmente sono la stessa cosa, sono aziende pubbliche. Nel 2017 Fincantieri fa un'OPA, diciamolo con parole più semplici, dichiara di voler acquistare, perché nei mezzi, il 51% del concorrente maggiore del produttore di armi in Europa, che ha, che è la XTX francese. Lo dichiara, ne ha i mezzi, questo nell'economia avviene. Si conclude, no, perché Macron, con il sostegno entusiastico dell'estrema destra Le Pen e dei comunisti Mélenchon, nazionalizza improvvisamente XTX. Non potrebbe farlo secondo le regole europee. La questione è ancora sul tavolo europeo dal 2017 ad oggi. Quest'anno dovrebbero dirimere se ciò che ha fatto Macron è lecito o meno, cioè impedire l'acquisto da parte di Fincantieri, cioè Leonardo, di XTX. Vedremo come andrà a finire la questione e sul tavolo dell'Europa. Quindi ciò che avviene nominalmente in territorio libico, cioè questo schieramento contrapposto tra Italia e Francia, viene contemporaneamente negato nella partecipazione dell'Italia con la Francia nel gasdotto ISMED, quindi lì le alleanze si negano, si mischiano, si ribaltano nel nome del profitto e si innesta un conflitto economico ancora più profondo che però non ci viene raccontato dai media, che è l'acquisto dei cantieri STX. Questo cosa sta a dimostrare quindi? Sta a dimostrare che l'Africa è centrale, la questione energetica è sempre più centrale, ma che non esistono assolutamente schieramenti di ordine politico, che l'affare è imperante e uno degli affari maggiori è il controllo dei flussi umani, cioè dei migranti, perché servono a seguire il ciclo della produzione. Di volta in volta li rifiuto, di volta in volta li accolgo. Ricordo, passato sotto silenzio, che durante il lockdown duro dell'anno scorso il Portogallo, che non a caso tutto il suo comparto agricolo vive solo unicamente dalla clandestinità, ha regolarizzato tutti i lavoratori agricoli clandestini perché c'era bisogno, perché voi sapete che qui si era andati in crisi durante il lockdown duro perché non c'era più nessuno presente fisicamente sui campi che potevano raccogliere i pomodori. Questo è significativo di come una posizione contro i migranti non ha nessun presupposto politico, non ha nessun presupposto etico, ma solamente il presupposto degli affari. Quindi Eni, nel suo modo di porsi alleato e contemporaneamente nemico, disegna esattamente quello che è l'intendimento della politica, della geopolitica, cioè unicamente l'affare. L'energia oggi si accompagna al controllo umano e la tecnica militare si sta evolvendo in questo senso. E si sta evolvendo in questo senso, l'hanno detto benissimo prima le compagne che sono intervenute, non c'è più distinzione tra guerra interna ed esterna. Nessuno ci viene mai a dire, l'ha detto prima la compagna e ce l'hanno detto le immagini, che nei CPR ci sono i militari, non c'è solamente la polizia o i carabinieri, ci sono i militari. I militari sono in strada. Il secondo finanziamento maggiore che viene annualmente dato dal piano pluriennale della difesa è per la presenza dei militari in strada e questo ne è un classico prodotto. Non c'è più distinzione tra forze dell'ordine civile e forze dell'ordine militare. Entrambi si stanno letteralmente confondendo, completamente confondendo. L'immagine del militare diventa civile, l'immagine del civile diventa militare, perché oggi l'immagine del militare ci viene trasmessa dai media come il meglio del sistema paese. La grande tecnologia, le grandi capacità, le grandi competenze e soprattutto non ci viene detto che noi siamo in 42 paesi del mondo per proteggere gli interessi sostanzialmente dell'ENI, ma siamo là per questioni umanitarie, per dirimere i conflitti e per portare la democrazia. Quindi questa è l'immagine che è passata in questi anni e che ha fatto sì che il militare diventa sempre più un'immagine positiva del sistema paese. Quindi siamo passati a santificare la presenza del militare, a renderle umanitaria, e ci troviamo invece militari nella gestione del civile, cioè dei CPR. Un'ultimissima cosa, io spero, l'ho cercato di fare nella mia analisi dei militari, ricevendo anche moltissime critiche in certi ambienti da parte di compagni. Cioè uno studio di quelle istituzioni civili e militari che sono nate dopo la guerra del 1990, nella guerra dei Balcani, la guerra di D'Alema, come si chiamava, e lì nacquero in tutti i paesi NATO delle strutture. In Italia si chiama COCIM, civile militare, sono 40 persone, metà sono degli stati maggiori, metà sono docenti universitari. Che cosa fanno questi? Intervengono sui territori nei casi di conflitto o dopo i conflitti per ricostruire il tessuto civile. Questo perché? Perché non sta bene, come avveniva prima nel 1990, che dopo la guerra fosse la divisa, l'immagine militare che costruiva le strade, costruiva i ponti, costruiva gli ospedali, si occupava delle infrastrutture. È meglio che lo faccia un civile. E allora che cosa è successo? È successo che a livello di tutti i paesi occidentali, i paesi NATO, le più grandi, più famose, più etiche, più santificate ONG e ONLUS, Medici Senza Frontiere, tanto per dire, africari che mano tutto l'affare delle ONG africane. Ho detto due nomi, sono circa una sessantina, le maggiori, partecipano al grande affare del militare. Sono presenti sul territorio dove si è appena concluso un conflitto, dove ancora il conflitto è in corso. E come si finanziano queste ONG? Attraverso le più grandi organizzazioni finanziarie mondiali, la Banca Mondiale, la BCE, l'Organizzazione Finanziaria del Nord America. E sapete come li finanziano? Dando in appalto alle ONG il grandissimo affare dello sminamento, lo sminamento delle mine antiuomo, che sono numeri enormi. coloro che oggi si occupano dello sminamento nell'Aus, che fu il territorio più inondato di queste mine antiuomo nella trentennale guerra dell'Indocina, sapete chi è? Una delle più grandi ONG militari, sono i veterani del Vietnam. Quelli, gli stessi che erano là a combattere, oggi fanno gli affari sminando o gestendo gli appalti per lo sminamento. E quindi quello che ha detto la compagna deve aprire un nuovo fronte di indagine, ma anche un nuovo fronte di lotta, cioè quello dell'affare della carità. Perché è importantissimo questo. Dobbiamo proprio togliere ogni aspetto etico, lo dobbiamo togliere, lo dobbiamo mettere a nudo per mettere al centro l'affare. So che questo ci costa, o alcuni compagni, è una cosa che può costare, però lo dobbiamo fare, dobbiamo cercare di mettere al centro l'affare. Il CPR è un affare, lo sminamento è un affare, le ONLUS e le ONG che collaborano in Italia col COCIM e negli altri paesi sotto altre sigle e che si occupano dello sminamento, sì, riattaccano anche le gambe a qualcuno, costruiscono l'ospedale che è stato bombardato, ma attenzione, a seguito di un affare precedente, ovvero della distruzione della guerra precedente. Questo bisogna ricordarlo. Quello che sta avvenendo a Kabul, o che è avvenuto a Kabul, Kabul è stata divisa dal 2001 ad oggi in due Kabul. La Kabul dei diseredati, dove è aumentato in maniera tremenda i mendicanti, la prostituzione, coloro che hanno fame, e la Kabul degli occidentali, dove le più sante e santificate ONG hanno agito. È una Kabul divisa, fisicamente divisa, era la Kabul delle ambasciate, la Kabul di cui gran parte delle persone che sono venute qua in Occidente avevano trovato impiego e lavoro. Lavoravano per il sistema occidentale, ma erano due Kabul completamente diverse. Chi c'è stato me l'ha raccontato, oltre che avere documenti e informarci. E lì le ONG ci sono entrate e hanno fatto il loro lavoro caritatevole, ma a seguito di qualcosa che moralmente non è accettabile e di caritatevole non è, che non è solo la guerra, perché dietro la guerra c'è l'ENI, dietro l'ENI c'è l'affare, così come credo brevemente ad aver illustrato stasera, senza pudore, senza mezze parole. A seguito di questo devo dire, non è per fare della bassa propaganda politica, ma noi abbiamo lanciato un'assemblea antimilitarista che si è tenuta a Milano due settimane fa all'OCA, che è il laboratorio occupato Cascavit. Abbiamo, da quell'assemblea è uscita l'organizzazione di una manifestazione nazionale antimilitarista che si terrà a Torino il 20 novembre in occasione del, lo dico in italiano perché non riesco in inglese, è la fiera, diciamo il mercato delle armi dell'aerospazio, di cui l'Italia insieme a Israele e gli Stati Uniti è una delle punte di diamante. Noi siamo assolutamente avanzati in questo settore, che poi è il settore portante di tutto il complesso militare industriale. Ma da quell'assemblea è uscito anche un'altra proposta, e quindi una proposta che abbiamo già fatto qua anche e che ha visto l'adesione del Centro di Documentazione contro la Guerra, ma che, lo dico qua pubblicamente, seguiranno poi gli inviti ufficiali, ufficiosi, anche qui, per chi si occupa dei CPR, perché crediamo che sia un tema assolutamente antimilitarista, e vorremmo organizzare, se ci riusciamo, con la partecipazione politica più ampia, ma questa è la partecipazione politica, non è l'etichetta, il colore della bandiera, ma chi si interessa dei problemi degli ultimi, come fa questa associazione. La nostra intenzione portare qui una manifestazione o comunque una, un'iniziativa contro l'ENI, che in ogni caso sarà organizzata per l'anno prossimo. Quindi interesseremo largo raggio chi sarà interessato a questo percorso e vedremo poi come costruirlo. Grazie. Però non mi dovete sollecitare così, perché altrimenti stiamo quasi... Prima no, non mi dovete, perché la passione poi mi trascina. Allora, nel primo lavoro che abbiamo fatto per il convegno del 2018 che abbiamo prodotto qui a Milano è stato uno studio analitico di tutto il mondo militare che è rivoltato come un calzino completamente. E una delle cose che non si sa, ma che noi abbiamo posto con assoluta evidenza, è l'intreccio tra mondo universitario e università e apparato militare industriale, che si ha su due livelli, su due piani. Primo, una cosa che nessuno sa, sino a pochi anni fa i quadri dei militari, cioè gli ufficiali, venivano formati da chi? Dall'Accademia, ok? Oggi non vengono più formati dall'Accademia nel loro percorso ultimo, perché la laurea la conseguiscono non in Accademia ma nelle università, nelle migliori università pubbliche e private italiane. Hanno sottoscritto 51 accordi con le università, per cui i soldi che servono per le istruzioni pubbliche, sapete che sono sempre di meno, e apro chiudo parentesi, nel recovery fund sono tra gli ultimi per l'istruzione pubblica. Una parte di questi soldi va per la formazione dei quadri militari. Questo è bene che si sappia. Ma oltre ad avere fatto questa panoramica e avere svelato questa cosa, io ho rintracciato più di 230 progetti che le università italiane, le migliori università italiane, stanno mettendo in campo, progetti pluriennali, esclusivamente per l'apparato industriale militare. Quindi c'è un'interconnessione tra università, ricerca, sviluppo e apparato industriale militare che è strettissimo, perché il prodotto militare oggi non solo è il più sofisticato dal punto di vista tecnico, digitale, ma ha anche una caratteristica per rispondere sempre all'affare, che è dual use. Mi spiego. L'ultimo elicottero di Leonardo, NK90, in 20 minuti è letale arma militare, in 20 minuti lo adatto e diventa perfetta arma civile per le ricerche geologiche, per il meteo, per il soccorso alpino e per il soccorso in mare. Quindi anche il prodotto militare si è adattato al civile, il civile si è adattato al militare, e quindi come logica conseguenza le università lavorano, e noi abbiamo tutta la lista dei progetti, lavorano a tempo pieno con le migliori loro risorse e intelligenze umane per l'apparato industriale militare. E questa è una tristissima realtà. Ma a questo aggiungo che la realtà forse peggiore è questa, che nelle regioni dove è presente l'apparato militare industriale più qualificato, cioè Piemonte e Lazio, perché lì sono i centri italiani, che ho detto prima, sono anche mondiali, perché siamo a livello mondiale nella ricerca dell'aviospazio, non c'è satellite che vada in cielo che non abbia una componente italiana. Bene, lì la scuola lavoro, come adesso si chiama perché viene declinata di anno in anno in modo differente, c'è sempre più la presenza, abbiamo la situazione monitorata, degli ufficiali dell'aeronautica che entrano nelle scuole non solo medie superiori ma anche medie inferiori. Quindi è un intreccio tra università, mondo dell'istruzione e apparato industriale militare, apparato militare, che è sempre più soffocante per la società civile. Quindi quando noi leggiamo i bilanci di cosa costa il militare tradotto quotidianamente, che sono 61 milioni di euro al giorno per 365 giorni, attenzione, questi sono i numeri che vengono fuori dalla ragioneria dello Stato, non è un numero buttato lì, ma non ci sono dentro i costi delle 51 convenzioni che le università hanno fatto per la formazione degli ufficiali delle quattro armi, non ci sono, e non ci sono neppure i costi della ricerca dell'università che fa esclusivamente per il mondo militare, perché lì determinare quei costi diventa problematico. Quindi quei 61 milioni al giorno in realtà sono da ritoccare in rialzo. Quindi ti ringrazio della domanda, perché è una parte fondamentale, sarà un rapporto sempre più stretto. Scusate, approfitto, no, proprio sarò brevissimo, ma volevo corroborare gli interventi della serata, nel caso eventualmente aggiungendo un nuovo soggetto, per dire due parole sulla vicenda dei minori stranieri non accompagnati, che sono il primo pezzo della catena che è stata poi raccontata all'inizio e che si vede qua. Ci sono tantissimi ragazzi che arrivano con un mandato familiare molto forte, restano spessissimo in contatto con le loro famiglie, che fanno dei viaggi che sono molto difficili, talvolta durano anni, e che arrivano minori in Italia e vengono quindi registrati come minori stranieri non accompagnati. Su di loro c'è stata fatta una legge in tutela, che è la legge Zampa del 2017, l'aprile 2017, che in qualche misura, almeno a parole, li copre di tutte le di tutto, cioè gli garantisce un'accoglienza, l'istruzione, e fa sì che vengano, non possano essere allontanati dall'Italia in alcun modo, a meno che non sia loro desiderio e che questo loro desiderio sia corroborato da un'ispezione che viene fatta sul luogo da degli organismi superiori italiani, cosa che mi hanno detto che si fa. Di fatto però quello che succede è la ripetizione dello schema detto prima per quelli più grandi, cioè da una parte questa cosa costituisce un grande affare, perché ci sono un sacco di cooperative, di enti umanitari, come si può dire, di solidarietà, almeno a parole, talvolta in qualche misura anche dei fatti, che fanno molti soldi sulla gestione di questi ragazzi, e nella gran parte dei casi lo scopo, diciamo così, o l'impostazione generale è quella di un puro e semplice avviamento al lavoro, cioè loro vengono disciplinati e formati, ragazzi che magari, ripeto, hanno fatto dei viaggi lunghi anni da soli attraverso l'Europa, vengono sottoposti a delle forme di controllo e disciplina di amicisiano dal punto di vista scolastico, e come se fossero in una specie di orfanotrofio dal punto di vista dell'accoglienza. La regola è che imparino a obbedire alle regole, a portare pazienza, a rispettare e ad imparare, ed imparino la professione. A Milano va tanto il muratore e la ristorazione, che vuol dire il cameriere o la cucina. Chi non sarà inserito in questo non riuscirà a reggere a questi ritmi, a questa forma, come dire, di questo metodo formativo, al 18° anno e 6 mesi, se non avrà una casa e un contratto di lavoro, entrerà nel giro che lo porterà o a abitare in una casa occupata da qualche parte o in un CPR forse poco dopo.